Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibald, Zibald, Zibald, Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda. Io sono Steven Forti e questo già lo sapete, è un programma in italiano, non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 su alle frequenze appunto di questa storica Radio Libera Barcellonese. E poi vi dico anche che se volete ci potete ascoltare in streaming, ma insomma è una cosa un po' vecchia ormai, ma soprattutto che se non riuscite ad ascoltare Zibaldone dalle 18 alle 20, beh, insomma, andate sul nostro blog e vi scaricate in podcast tutte le puntate del programma e lì le trovate zibaldone.contrabanda.org. Oggi siamo quasi, siamo entrati nella seconda metà di febbraio e 17 febbraio ci sono tanti ospiti, tante storie da raccontare, tanti viaggi nel passato. Non vi dico nulla di più perché li scoprirete in queste due ore insieme a noi. Cominciamo subito con un po' di musica, una canzone che forse direte ma perché mandiamo in onda questa canzone? Beh, ve lo spiego dopo averla ascoltata. Eccola qui. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto. una canzone che non ha bisogno di presentazioni, il mondo, Jimmy Fontana, una sessantina di anni fa, occhio e croce, un po' meno, è quando uscì questa canzone. Non parliamo di Jimmy Fontana, non parliamo della musica italiana degli anni 60 quest'oggi qui a Zibaldone, parliamo però del mondo, anzi dei mondi di ieri soprattutto. Si tratta di una serie di viaggi nel passato, quelli che faremo in queste due ore a Zibaldone, e insieme a diversi ospiti. Cominceremo con gli anni della Belle Époque, anche della prima parte del Novecento, con la figura di Giulietta Gordigiani, pianista, cantante, un'artista a tutto tondo, nata nella Firenze del 1871, che poi insomma si muoverà tra l'Italia e la Germania in un periodo che insomma tra i totalitarismi, le guerre mondiali, una storia davvero particolare, sconosciuta ai più, e ce la racconterà Carmen Pérez Torrecillas, autrice appunto di una biografia di Giulietta Gordigiani. Poi continueremo, andremo un po' più avanti tra gli anni interbellici e gli anni 50 e troveremo lo swing, quello di Fred di Colt and His Swing Kids, ci presenterà il suo nuovo disco Time Pavilion, e poi arriveremo al presente, in realtà però facendo un salto all'indietro nella mitologia, con Demetra. Demetra è il titolo del nuovo disco di Tenedle, artista fiorentino da tempo residente in Olanda e spesso in passato nostro ospite, ci presenta sempre i suoi nuovi lavori. Ecco, non è un disco che parla dell'epoca classica, della Grecia classica, o della Roma classica, ma parla invece del presente e guarda avanti anche al futuro. E poi tante altre cose, ovviamente anche le nostre rubriche. Però immergiamoci subito nella fine dell'Ottocento con Giulietta Gordigiani. E prima di parlare con Carmen Pérez Torrecillas, andiamo ad ascoltare un frammento della Sinfonia numero 4 di Mendelssohn, la italiana. Questa è la italiana di Mendelssohn, sì, perché quest'oggi a Zibaldone parliamo anche di musica classica, e lo facciamo insieme a Carmen Pérez Torrecillas, che è autrice di un libro che racconta una vita fantastica di una donna incredibile che è Giulietta Gordigiani, e su cui davvero insomma molti non sapranno nemmeno chi è, dei nostri ascoltatori. Io sono sincero, non la conoscevo in pratica. Il titolo del libro è Giulietta Gordigiani, la italiana di Mendelssohn, è uscito da poco per i tipi della editoriale Arpeggio qui a San Cugat a Barcellona. Innanzitutto, Carmen, benvenuta a Zibaldone, un piacere averti con noi. Grazie, un piacere anche per me. Allora, Giulietta Gordigiani, cioè io insomma, leggendo il libro sono rimasto stupito da quante cose ha fatto questa donna, quante persone ha incontrato, insomma, poi tra l'altro in alcuni decenni, tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento, che insomma hanno cambiato radicalmente nel bene e nel male il mondo, è una donna incredibile davvero. Sì, certamente una donna affascinante. Giulietta Gordigiani è nata a Firenze a fine dell'Ottocento, lei era una cantante, è nata in una famiglia di artisti, pittori famosi conosciuti a Firenze. Lei era una cantante pianista che ha frequentato lungo la sua vita questi personaggi incredibili, ha avuto una vita anche molto movimentata, come tu hai detto, e nel libro spiego un po' la sua storia. Lei, se devo proprio destaccare delle cose, direi che ha incominciato da giovane come cantante, ha fatto una carriera brillante, poi ha sposato un discendente Mendelssohn, ha vissuto un lungo periodo della sua vita a Berlino, poi si è trasferita a Firenze e lì ha conosciuto un violoncellista catalano di Barcellona, Gaspar Casadó, con cui ha vissuto più di 30 anni, hanno creato anche un duo, insomma hanno avuto tutta una vita, la sua vita è girata sempre intorno alla musica, che lei chiamava l'arte suprema, e non soltanto alla musica, sino che sia a Berlino che a Firenze frequentava questi ambienti intellettuali, lei frequentava premi Nobel di letteratura, politici, personaggi proprio che hanno fatto storia tra la fine Ottocento e il secolo XX. È anche amica della Duse, di Isadora Duncan, insomma di tutta una serie di personaggi che non finirei mai qua adesso a raccontare. Eh sì, di D'Annunzio, di Rainer Maria Rilke, di Romain Rolland, di Hoffmann. Sì, insomma, esatto, sì. Conosceva gran parte dell'intelligenza europea di fine Ottocento e primi del Novecento, con cui si scriveva, no? Tu lo racconti molto bene nel tuo libro, sì. Insomma, aveva una corrispondenza epistolare, eccetera. Ma prima di entrare a fondo un po' nella biografia di Giulietta, anche perché ci sono alcuni passaggi della sua vita che sono interessanti, che hanno a che fare non solo con la musica, ma anche con l'arte pittorica, in fin dei conti, volevo domandarti come tu ti sei avvicinata alla figura di Giulietta e perché hai deciso di scrivere una biografia che tra l'altro ti è costata tanto lavoro, perché insomma sei andata alla ricerca di informazioni su di lei negli archivi di diversi paesi europei. Sì, c'è l'interesse per Giulietta viene da un fatto, diciamo, familiare, perché il mio marito, che italiano, discende, la famiglia materna discende dai Gordigiani a Firenze. Noi abbiamo vissuto in questa città per molti anni e mi ricordo tanti anni fa quando li ho conosciuti e mi hanno raccontato che non ero stata la prima catalana a essere in famiglia, mi hanno parlato di Gaspar Casadó, di Giulietta, ho sempre sentito queste aneddote su di lei, che mi avevano all'epoca non tanto incuriosita. Un po' di tempo fa, vivendo già qui a Barcellona, insomma, per caso mi è capitato di trovarmi con dei dischi, ho trovato di Gaspar e Giulietta e mi sono incuriosita nuovamente a loro e così pian pianino mi sono incuriosita a Giulietta, ho cominciato a chiedere e la cosa particolare è che lei fece bruciare tutta la sua corrispondenza prima di morire, ordinò che fosse bruciata, per cui la famiglia non preserva documenti verso i quali andare a cercare informazioni su di lei. E quindi, non so, io mi sono molto incuriosita a lei e la sua vita per questa aneddoti che mi raccontavano, che mi sembrava una donna super interessante. E così ho pensato che, siccome all'epoca si avevano tutti questi rapporti epistolari, no? Di corrispondenza con tutti questi personaggi, ho detto, va bene, ho pensato, Giulietta magari ha bruciato le sue lettere, però quelle che lei ha spedito a tutti quegli altri, da qualcuna parte, esatto, forse ci sono. E siccome erano personalità certe, dunque molti conservano i suoi fondi in archivi pubblici o privati, e così ho iniziato veramente un'avventura incredibile, perché il lavoro d'archivio mi pare affascinante. E inizialmente ho iniziato in Italia, logicamente, poi sono passata in Germania, e poi anche negli Stati Uniti, perché la figlia di Giulietta viveva a New York, quindi il suo fondo personale è lì, e pian pianino sono riuscita a ricavare tutti questi documenti, con la difficoltà anche che sono documenti antichi, scritti a mano, la calligrafia, no? Non è facile di leggerla, e in più usano quattro lingue, no? Usavano normalmente italiano, francese, inglese e tedesco, quindi anche la traduzione, eccetera, però non so, mi ha preso molto, mi sono appassionata. Mi sarò occupata per appassionata, sì, giustamente appassionata. Sì, a lei, andò così. E dicevi prima che Giulietta appunto nacque a Firenze nel 1871 e diciamo nei primi 30 anni della sua vita, fino proprio alla fine del XIX secolo, ha insomma poi vissuto, soprattutto negli anni 90, quando già era maggiorenne, insomma, una intensa attività artistica, suonando a Parigi, a Berlino, a San Pietroburgo, a Mosca, e fino però al 1899, che è quando poi interrompe la sua attività artistica, perché si sposa proprio con Robert von Mendelssohn. Ecco, un incontro che gli cambierà in tutti i sensi la vita. Sì, un incontro che è stato, a quanto pare si sono conosciuti attraverso Eleonora Duse. Pare che Robert von Mendelssohn era innamorato di Eleonora Duse, la divina, che era molto molto amica di Giulietta, un amore non corrisposto, ma lei l'ha introdotti, invece loro, Giulietta e Robert, effettivamente, insomma, sono diventati coppia, si sono sposati e lei, Giulietta, si è trasferita a vivere a Berlino. Robert von Mendelssohn è un discendente della famiglia, la famosa famiglia berlinese dei banchieri e anche loro di Moses Mendelssohn. E Robert è anche imparentato con Felix Mendelssohn, il compositore, con Fanny. E Giulietta ha vissuto i primi 20 anni del secolo XX a Berlino. I Mendelssohn concentravano anche, erano un punto di ritrovo nella città di Berlino, non soltanto per la comunità di musicisti e di artisti, ma anche di politici, finanzieri, diplomatici, sì. Perché nonostante facevano la sua attività economica, avevano questa banca, Mendelssohn ancora importantissima, e erano anche ovviamente vincolati ai settori economici, politici della città, anche dello Stato, e oltre a quello avevano un'attività di musico amateur e anche di mecenati delle arti, della musica, e Giulietta frequentava tutto questo mondo nel quale venivano per casa sua, passavano moltissimo, cioè la creme della creme dei musicisti, degli artisti europei, sì. E infatti tu dicevi i primi 20 anni del Novecento, perché infatti lei tornò in Italia subito dopo la Prima Guerra Mondiale, perché era rimasta vedova. Ecco, ma prima di raccontare che cosa succede, diciamo, dopo la Prima Guerra Mondiale, il suo ritorno in Italia, e poi anche lì appunto l'amicizia, il legame, la relazione con Gaspar Cassadò, che tu nominavi poc'anzi, mi interessa anche invece soffermarmi un momento, visto che parlavamo di Mendelssohn, perché per quanto rimasta vedova così presto, il suo legame con la famiglia Mendelssohn e con le vicissitudini politiche tedesche durerà per tutta la sua vita. Sì, perché lei, come hai detto, rimane vedova di Robert von Mendelssohn. È morto nel 1917, non c'entra con la Prima Guerra Mondiale, è morto per una malattia che aveva, e lei passa a ereditare tutto il patrimonio del suo marito, che vuol dire una partecipazione in una banca, dei preziosi, delle ville, e una collezione d'arte fantastica composta da pitture di Rembrandt, Rubens, Manet, Monet, Degas, e tanti soldi, insomma. Lei passa a essere la proprietaria di tutti questi beni, che quando lei si trasferisce in Italia rimangono in gran parte in Germania, non li può trasferire. Arrivano i nazisti al potere e ovviamente loro, ai Mendelssohn, hanno la considerazione di ebrei per loro, quindi sono interessati a queste proprietà. Nel mio libro spiego il modo in cui Giulietta ha dovuto cedere a questo, come dire, a questo desiderio di queste autorità per tutti questi beni. Certo, furono espropriati. Che lei non ha potuto recuperare. Sì, sono stati espropriati, e che oggigiorno alcuni di questi quadri ancora sono appesi in dei musei pubblici, formano parte delle collezioni dei musei di Vienna e anche della Germania. Sì. E adesso infatti dopo ci torniamo, anche perché c'è una storia poi particolare proprio su uno di questi quadri. Andiamo però a fare una piccola pausa, andiamo ad ascoltarci un brano interpretato proprio da Giulietta von Mendelssohn-Gordigiani al piano, e al violoncello invece troviamo il catalano Gaspar Cassadò. È una registrazione del 1927 a Londra di Danzas Españolas numero 5 di Enrique Granados. E poi ritorniamo qui insieme a te, a Carmen, e proprio parliamo anche di Gaspar Cassadò e dell'incontro tra Giulietta e Gaspar. Questa era Danzas Españolas numero 5 di Enrique Granados nell'interpretazione di Gaspar Cassadò e Giulietta Gordigiani, di cui stiamo parlando proprio quest'oggi insieme a Carmen Pérez Torrecillas, autrice di Giulietta Gordigiani, La italiana de Mendelssohn, libro uscito da pochissimo e che tra l'altro la prossima settimana, martedì 21 febbraio, si presenterà proprio qui a Barcellona alle 19 alla libreria Byron. Carmen sarà accompagnata da Monica Pagès. La libreria Byron è nel quartiere San Antoni, Calle Casanova 32, martedì 21 febbraio alle 19, se volete scoprire ancora meglio la vita di Giulietta. Stavamo parlando proprio degli anni interbellici, no? In cui Giulietta ritorna in Italia dopo essere rimasta vedova di Mendelssohn, e poi all'inizio degli anni 20 Carmen conosce proprio Enrique Granados, che sarà il suo compagno negli anni restanti della sua vita. Giulietta morirà nel 1957. Sì, effettivamente si conoscono, Giulietta e Gaspar Casado si conoscono a Firenze nel 1923. Gaspar Casado, come detto prima, è figlio di Joaquim Casado, che era il maestro di cappella della chiesa della Mercè qua a Barcellona. E Joaquim, il padre, aveva questi figli, Gaspar, fratello e sorella, che erano tutti bravissimi musicisti, e con l'aiuto di una borsa di studio e altri soldi che sono riusciti a mettere insieme, si sono trasferiti a Parigi con il desiderio che i figli, no? Il padre voleva che i figli studiassero musica lì prima della prima guerra mondiale. Dopo, quando esplode la prima, lì Casado conosce Casals, che diventa il suo maestro. Difatti Casado è stato l'allievo che per più anni ha studiato, cioè che è stato più tempo con Casals studiando. Poi, quando esplode la prima guerra, lui torna a Barcellona e dopo da lì passa all'Italia, e in Italia diventa amico di Francesco von Mendelssohn, che è il figlio di Giulietta. Sono coetanei più o meno della stessa età, perché Gaspar avrebbe potuto avere, cioè poteva avere, era dell'età del figlio, no, di certo, Giulietta, certo. E tramite Francesco conosce Giulietta, si conoscono suonando, e tra loro appunto nasce un'intesa e vanno a vivere insieme, diventano coppia per più di 30 anni, creano anche un duo di musica, stando a Firenze, il duo violoncello-pianoforte, e con questo duo per 10 anni, per un decennio, fanno concerti praticamente sì in tutta Europa, riscuotendo sempre un grande successo. Entrambi erano due grandissimi virtuosi, erano bravissimi, erano geniali, e insieme facevano un duo. Erano molto bravi anche dal vivo, più che nelle registrazioni. Hanno fatto registrazioni, ma non tante, a quanto pare erano dal vivo, rendevano sì benissimo, sì. E l'altra cosa, così che insomma mi viene quasi spontaneo chiederti, qual è stata la relazione di Giulietta con il fascismo? Perché insomma nella maggior parte degli anni interbellici, al di là delle tournée, lei viveva appunto in Italia. Mi sono fatta l'idea che appunto Giulietta fosse, cioè, più che altro una grandissima patriota. Lei, lungo la sua vita, anche per lei, è nata nel periodo del Risorgimento italiano, no? Quando Firenze era appena stata, no, capitale del, certo, Regno d'Italia, quindi era tutta gonfia di questo, beh, patriottismo, nazionalismo italiano. Quando lei va a vivere a Berlino, e lì dove passa anche la prima guerra mondiale, soffre molto del fatto di essere troppo italiana per essere tedesca, poi quando tornava in Italia era troppo tedesca per essere italiana. Insomma, lei a Firenze penso che cioè, frequentava sì delle personalità, scusate, del mondo culturale e intellettuale di Firenze, legati anche al fascismo, insomma. Sì, sì, sì, sì, perché all'epoca anche il fascismo aveva fatto, creato anche, no, queste tipo l'associazione Gli Amici della Musica, nasce in quel periodo, no, d'effervescenza anche culturale. No, questa cosa è interessante anche per collegarla a quello che ci raccontavi prima, Carmen, riguardo anche al nazismo, no, all'esproprio dei beni che lei aveva ereditato appunto dalla famiglia Mendelssohn, da suo marito, e che ha a che fare anche con la storia che tu racconti di questo quadro, che non si sa ancora bene in realtà se è un Rembrandt, che Hitler volle proprio per casa sua, se non ricordo male. Sì, effettivamente la collezione d'arte che lei aveva ereditato del marito, che era rimasta in territorio del Reich, lei non ha potuto portarla in Italia, si è vista forzata a venderla. Dopo non è chiaro, anche a quanto pare lei non ricevette neanche i soldi, quindi insomma una transazione, insomma, non, beh, si è vista un po' forzata tutto quanto. E dopo la guerra, quando questo quadro, ad esempio, che adesso spieghi nel libro, lo racconto con più dettaglio, no? Questo quadro appare dopo, verso la fine della guerra, appare in una delle miniere di sale, Hitler l'aveva comprato per la sua collezione personale, ritorna a mani prima degli americani e dopo dallo Stato tedesco. i figli fanno un processo legale, tentano dopo la guerra di recuperare questo patrimonio artistico, questi quadri che erano insomma della proprietà del suo padre, e ci sono diversi processi legali in Germania che non vanno a risolvere il fondo della questione, si fermano a un primo livello puramente formale, quindi vengono respinte queste richieste, sì, della famiglia, in parte dicendo che Giulietta non solo non era perseguitata, perché vabbè, lei non era considerata ebrea, non era ebrea, però anche dicendo, arrivano, cioè nei dossier che ho trovato, arrivano anche a dire che Giulietta era affine al nazionalsocialismo, e per questo anche non si poteva dire che era stato un espolio, cosa assolutamente, insomma, questionabile, però, diciamo. Sì, infatti questionabile e non vera in questo caso, ecco, certo, per di più. Certo. E dopo, per quanto riguarda a questo quadro, spiego tutto con più dettaglio nel libro perché è abbastanza complesso, per quanto riguarda questo quadro, la cosa buffa è che questo quadro che compra Hitler, che appare in queste miniere, poi gli americani fanno il processo, dicono che okay, no, non deve ritornare alla famiglia, ritorna allo Stato tedesco. Lo Stato tedesco lo ha ceduto in prestito a un museo che adesso è esposto a Francoforte, nella città di Francoforte, nello stadio del museo, però con molti dubbi sull'attribuzione a Rembrandt. Questa è una cosa che succede spesso nell'arte, no? I dubbi sull'attribuzione, certo. Ma in questo caso curioso risulta che il padre di Giulietta, che era un bravissimo pittore, Michele Gordigiani, un pittore fiorentino, aveva fatto una copia di questo Rembrandt, che era una copia bravissima. E durante, lo spiego anche nel libro, durante la Seconda Guerra Mondiale c'è tutto un movimento di quadri su e giù attraverso la Germania, Svizzera, Austria, di qua, di là. Alla fine, lungo la mia ricerca, Roberto aveva due Rembrandt e aveva due copie fatte da Michele. Lungo la mia ricerca mi manca un quadro, mi manca proprio la copia di quello che oggi è appeso a Francoforte. Quindi la mia ipotesi è che magari il quadro che oggi ha preso a Francoforte non è il Rembrandt originale, ma potrebbe essere una delle copie fatta da Michele, esattamente, sì, dal padre. Sì. Beh, insomma, la sua vita, davvero, la vita di Giulietta Gordigiani è ricca di aneddoti, è ricca di incontri, è ricca di incontri con la storia. Ecco, ed una delle, anche per concludere questa breve chiacchierata insieme a te su Giulietta Gordigiani, Carmen, una delle cose che tu anche cerchi di spiegare nel libro è, in fin dei conti, come Giulietta, ma anche Gaspar Cassadò, in fin dei conti, rappresentano un po' degli esponenti di quel mondo di ieri che raccontava Stefan Zweig, no? Persone che avevano vissuto appunto la Belle Époque, un mondo europeo cosmopolita, evidentemente provenienti da famiglie benestanti, molto colte, sì, che poi si trovano a vivere la Prima Guerra Mondiale, i totalitarismi, la Seconda Guerra Mondiale, e che anche musicalmente rappresentano qualcosa che già a partire dagli anni 30 e ancora più dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti è legato al passato. Sì, effettivamente c'è un cambio, ne raccolgo anche nel libro parte delle lettere di Giulietta di questo periodo, insomma, della sua vita, in cui lei anche si rende conto che ormai il mondo al cui apparteneva del passato, no, non esiste più, è cambiato, sa che non forma parte, è proprio come dici te, è sparito, no, questo mondo al quale appartenevano, come tantissimi altri, che ha lasciato passo a delle novità, dei nuovi modi, no, di fare anche di musica, artistici, certo, sociali, politici, eccetera. Sì, sì, sì. E beh, insomma, è tutto da scoprire la vita di Giulietta Gordigiani. Carmen, ma ci sarà anche magari una traduzione in italiano del tuo libro? Eh sì, sto lavorando proprio a quella, perché anche so che c'è un certo interesse anche in Italia, me l'hanno chiesto, sto lavorando pian pianino perché, insomma, la sto facendo io a livello personale, però mi ci vuole, non sono madrelingua italiana, sì, un grandissimo lavoro, però spero di magari lungo quest'anno, con l'aiuto anche di altre persone che si sono già gentilmente offerte, poter avere una traduzione italiana e trovare una casa editrice a Firenze o in Italia, insomma, ovunque. Certo. Per poterlo pubblicare anche lì, e stiamo lavorando anche alla traduzione in tedesco per la Germania. Bene, anche. Bene, insomma. E intanto però abbiamo questa Giulietta Gordigiani, La italiana de Mendelssohn, appunto il tuo libro uscito da poco in lingua spagnola, e lo potete trovare con facilità. Noi ci salutiamo con un ultimo brano di Gaspar Cassadò e Giulietta Gordigiani, e in questo caso è una registrazione sempre a Londra, ma nel 1930, e si tratta di Salut d'amour. L'amour di Edouard Elgar. Carmen, grazie davvero di essere stata con noi e complimenti ancora per le tue ricerche e il tuo libro. Grazie mille, grazie ancora una volta anche a voi. Grazie, ciao. Ciao Carmen, e ricordiamo che martedì prossimo, 21 febbraio, alle 19, alla libreria Byron si presenterà questo Giulietta Gordigiani, La italiana de Mendelssohn. Zibaldone. Radio Contrabanda. Lei tutta rossa dirà sì. Che occhi, che naso. che bocca, che musetto, io divento un matto di felicità. Tutti i giorni quando esco tu mi vedi passare, quando passo tu mi guardi e ti sento parlare. Fatto che mi sposerà, qui c'è un diavoletto che nel cuor mi sta, prova a domandarle se le piaci, lei tutta rossa dirà che occhi, che naso, che bocca, che musetto, io divento un matto di felicità. Che musetto, questo è il titolo della canzone con cui introduciamo il prossimo ospite di Zibaldone, che è Freddy Colt. Innanzitutto do il bentornato a Freddy Colt, perché era già stato con noi qualche tempo fa per parlarci di Pippo Barzizza, un libro bellissimo di cui è autore, e quest'oggi invece ci parla di un disco di cui è il direttore dell'orchestra. Quindi Freddy, innanzitutto bentornato a Zibaldone. Buonasera a tutti, ciao Steven, e grazie a voi insomma per questa nuova occasione per parlare e per ascoltare questa volta anche della musica che io ho inciso, ecco. Eh sì, Freddy Colt and His Swing Kids, Time Pavilion, ritmi sincopati e latini dal sultanato dello swing. Beh, insomma, fa venire una gran voglia di ballare e ci riporta un po' indietro nel tempo tutta questa musica, eh? Sì, io mi diverto proprio un po' a creare un po' queste iperboli, no? Che nei sottotitoli. E d'altra parte è una musica che naturalmente ha tutta la sua componente, se vogliamo, culturale, ma che non si prende nemmeno troppo sul serio, ecco, no? E quindi noi ci piace insomma anche un po' scherzare su. Bisogna divertirsi nella vita, cerca, no? Sì, poi specialmente in questo tipo di musica che nasceva alle origini proprio anche un po' per il ballo, per l'intrattenimento, poi è diventata una musica di ascolto, una musica via via più raffinata in alcuni casi, no? Così, ma soprattutto lo swing aveva come sua caratteristica quella di dover divertire e far ballare, ecco. Quindi. E voi vi divertite molto, immagino, nei live, vero? Sì, sì, ci divertiamo, facciamo divertire il pubblico, perché sono canzoni, specialmente il repertorio che facciamo noi, che è prevalentemente italiano, sono canzoni anche un po' umoristiche oppure ironiche, e quindi c'è sempre un po' dietro un sorrisetto sornione, ecco, a queste canzoni, no? Molte di queste canzoni. Ma infatti anche quella con cui anche abbiamo aperto, Che musetto, no? Insomma, sì, c'è sì. L'ironia, è forse un testo ovviamente un po' âgé, ma logicamente stiamo parlando di musica di quasi un secolo fa. Sì, beh, quella lì è uscita subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, però c'era ancora questo gusto molto leggero, spensierato, molto, molto semplice nei contenuti. Però, ecco, la cosa simpatica di questa versione è noi abbiamo ripreso un arrangiamento originale proprio scritto dal suo autore, che era il maestro Enzo Ceragioli, uno dei grandi direttori italiani, nonché un bravissimo pianista e compositore jazz. Ma questo testo, se uno ci fa caso, è al maschile, sì. Però viene cantato da una voce femminile, sì. E invece la posta della donna la fanno gli uomini, quindi insomma, un qualcosa di molto così mischiato, ecco. A proposito, una cosa, Freddy, parlando di questi swing kids, ma chi sono i swing kids? Perché poi insomma si parla anche, e lo dico per i nostri ascoltatori, di quella che tu hai creato, che è un'orchestra stabile dello swing. Sì, beh, allora questo è nato, Questo progetto è nato qualche anno fa, nel 2016, come un laboratorio per i giovani talenti jazz del Ponente Ligure. Quindi io ho riunito un po' quelli che mi sembravano i più promettenti, giovani musicisti, e si partiva dai 17 anni fino under 30, quindi insomma fino ai 28-29 anni. Poi nel frattempo alcuni sono cresciuti, alcuni sono andati via, e li abbiamo rimpiazzati non necessariamente con dei ragazzi della stessa età. Quindi adesso diciamo che è un'orchestra, poi l'abbiamo chiamata Stabile anche provocatoriamente, perché di stabile non c'è nulla in questo mondo, specialmente della musica, e quindi così è diventato un progetto musicale a tutti gli effetti. Non è più soltanto un laboratorio per giovani, ma ci abbiamo collaborazioni e anche elementi fissi che di tutte le età, ecco, anche se prevalentemente è un'orchestra giovanile, resta un'orchestra piuttosto giovanile, ecco, così. Quindi per quello che si chiamano i ragazzi dello swing, perché era nata, a parte che era anche il titolo di un famoso film, sì, che parlava di queste cose, cioè della persecuzione in Germania sotto il nazismo dei giovani che ascoltavano questa musica, no? Quindi insomma è venuta da lì l'idea del nome, e poi come tutte le cose c'è un suo sviluppo, ecco, diciamo così. Ascolta, comunque parlando della scelta musicale, no? Prima sì? Parlavamo di Che Musetto rapidamente, ecco, però tra gli autori delle musiche che avete reinterpretato in questo Time Pavilion, sì? Ci sono anche tanti altri maestri della musica italiana, sì? Tra cui Pippo Barzizza, e qui ci ricolleghiamo, esatto, appunto al libro che hai scritto ormai, che è uscito un paio d'anni fa se non erro, e che avevi presentato anche a Sì. Esatto, sì, Barzizza non poteva mancare, ecco, insomma ci sono due brani, mi pare, suoi nel disco, e tutte e due però riarrangiati da noi, non sono, diciamo, con gli arrangiamenti dell'epoca originali, ma è una figura imprescindibile nel nostro genere, ecco, insomma, quindi ci teniamo a proporre sempre qualcosa di suo. Poi sono quelle classiche figure che sono delle miniere in realtà di materiale da riscoprire, perché ci sono sia composizioni che brani di repertorio di Barzizza, per esempio, che possono essere chiaramente recuperati e piacciono sempre al pubblico, ecco. Tra l'altro, per una persona come te, che appunto Barzizza l'hai studiato a fondo, com'è dopo, sì, aver scritto il libro, dopo aver dedicato ore, settimane, mesi di studio appunto alla sua biografia, alla sua musica, insomma alla sua vita, ecco, ritornare a suonarlo e reinterpretarlo anche con nuovi arrangiamenti, come dicevi? Sì, diciamo che si penetra molto di più il personaggio e si cerca di... è un po' come il lavoro che fanno nell'ambito della musica classica. Io immagino, no, i direttori che devono interpretare musiche di secoli fa, dei grandi della musica, e tu devi immaginarti loro come l'avevano concepite queste cose. Non bastano le note scritte sul pentagramma. Lo stesso vale per un Barzizza, che è musica scritta, quindi esiste anche la prassi esecutiva, perché nel caso di Barzizza abbiamo anche delle registrazioni sue, cosa che non abbiamo le registrazioni di Mozart o di Beethoven, chiaramente, certo. Però ecco, quindi siamo già un pochino più facilitati noi, ecco, in questo senso, ma nello stesso tempo bisogna penetrare il personaggio, la sua mentalità, il suo modo di intendere la musica, e ovviamente nel mio caso, visto che ho fatto questo studio approfondito, sicuramente credo e spero di aver capito qualcosa in più della sua musica e di poterla interpretare un po' meglio magari di come potevo fare 10 anni o 15 anni fa, che già suonavo la musica di Barzizza, certo, anche di più di 15 20 anni fa. E quindi sì, credo che sia utile sempre fare un po' di studio intorno a questo, anche alle figure, alla personalità degli artisti che si vanno a interpretare. Facciamo una piccola pausa, Freddy, andiamo ad ascoltarci un altro brano del vostro disco. Sì. Non diciamo però qual è la canzone, vediamo se i nostri ascoltatori colgono qualcosa, riconoscono qualcosa, e poi insomma sveleremo l'arcano in ogni caso dopo aver ascoltato il pezzo. Va bene. Thank you. ritorniamo qui con Freddy Colt per parlare di questo bel progetto che recupera la musica swing con base a Sanremo, con base in Liguria, Time Pavilion, nel loro nuovo disco, Ritmi sincopati latini dal sultanato dello swing. Freddy, io non so se i nostri ascoltatori se ne sono resi conto, hanno capito che cos'era il brano, che tra l'altro era un medley, ecco, quello già lo dico io, che è andato in onda, però sì. lo lascio spiegare a te. Sì, beh, sicuramente certe melodie. È vero che noi abbiamo fatto questi medley, ce ne sono due nel disco, ce n'è anche un altro sulle musiche di Gianni Ferrio, sono strumentali, quindi però sono melodie talmente conosciute che credo che quasi tutti le riescano a individuare. Nel caso specifico ce ne sono tre. La prima è Frida. Poi la seconda adesso mi sfugge, insomma, comunque sono sì, la seconda è Amore Fermati, ecco, che non è scritta a buon gusto, scriveva anche lui stesso le canzoni, era un cantautore in parte, mentre questo secondo brano, che viene accennato prevalentemente da sax tenore in questo nostro medley, è scritto da Gordy Kramer, un'altra grande figura del jazz italiano e della canzone sincopata. E poi l'ultimo è, vabbè, quello è impossibile non riconoscere una rotonda sul mare, no? Quindi, però ecco, devo dire la bravura del nostro arrangiatore Antonello Capuano, che è un musicista di Campobasso che collabora da molti anni con me, e iniziò a collaborare dopo che lui vinse il concorso, il premio Pippo Barzizza proprio, nell'anno, se non sbaglio, 2003, e vinse il primo premio con la giuria presieduta da Ennio Morricone, eccetera. Quindi dopo questa sua consacrazione, era molto giovane Capuano, dopo qualche anno ho cominciato a coinvolgerlo e mi ha scritto tanti arrangiamenti, e in questo disco ce ne sono sei suoi. E questo medley devo dire che è molto, molto riuscito, ecco, insomma, oltre al fatto che c'è anche un ospite come il flicorno e tromba di Felice Reggio, che è un jazzista piemontese molto riconosciuto, e tra l'altro appunto si sente la personalità anche del solista, ecco, in questo brano. Ascolta, Freddy, prima nell'intervista precedente di questa puntata di Zibaldone parlavamo di Giulietta Gordigiani, bravissima pianista, sconosciuta ai più, e con l'autrice della sua biografia riflettevamo su una questione, no? Che lei appunto nel libro tratta anche in profondità, come a partire soprattutto dalla fine degli anni 30, dagli anni 30 in realtà, dal periodo interbellico e ancor più negli ultimi anni della vita, dopo la Seconda Guerra Mondiale, della Gordigiani, insomma, si trovava ad essere, in fin dei conti, anche come pianista classica, un esponente di un tempo che ormai era il passato prossimo, perché appunto nuovi stili musicali erano entrati. Ecco, e tra questi stili musicali c'era proprio anche lo swing, che appunto c'è nel vostro disco. Ma quello che ti volevo domandare in realtà era com'è suonare lo swing oggi, visto che in fin dei conti sono delle sonorità che ci riportano a un passato che ormai è finito, o sbaglio? Beh, secondo me non è proprio finito, cioè è chiaro che se uno fa gli arrangiamenti originali si ricrea un suono che è esattamente quello dell'epoca in cui sono usciti. Il fatto di riarrangiarli già permette di rendere un po' più attuale il suono. È chiaro che lo stile rimane quello, rimane una cosa, diciamo così, che non fa parte del linguaggio dei giovani di oggi, ecco, sicuramente. Però, ecco, si riesce magari un pochino ad attualizzare certe sonorità. Comunque il destino è un po' uguale per tutti, perché come è successo che i musicisti classici si sono visti meno delle persone, no? Si sono visti appunto superare da nuove mode, come poteva essere il jazz, che attirava magari la gioventù. Poi ha subito lo stesso destino anche lo swing quando è arrivato il rock and roll, no? E quindi c'è stata una battuta di arresto della così dello swing italiano, soprattutto tra gli anni 60 e 70, ecco. Poi a mio avviso c'è stato un po' un recupero grazie al cantautorato, perché se pensiamo a un Paolo Conte o al primo Capossela, hanno recuperato lo swing, l'hanno riattualizzato nella loro maniera, ma è canzone jazzata quella lì per me, ecco, insomma, Sergio Caputo, Rossana Casale, insomma, negli anni 80 c'è stato chissà come mai questo rilancio in un modo nuovo, chiaramente, però erano tutti consapevoli di coloro che li avevano preceduti in quel tracciato lì, cioè è chiaro che Paolo Conte conosceva bene la musica di Barzizza, di Luttazzi e di tanti altri, no? Di Buscaglione, e così, quello è, quindi oggi noi certo non facciamo e non abbiamo pretesa di fare una musica che vada per la maggiore, ma ci contentiamo, diciamo, di catturare quegli ascoltatori che apprezzano questo tipo di cose, insomma. E dall'altra c'è da dire una cosa, adesso ci dirai tu com'è la situation nei vostri concerti, ma in genere la gente, il pubblico, quando ascolta lo swing, insomma, il corpo si muove un po' da solo. Sì, soprattutto devo dire che non è un fatto intergenerazionale, cioè è chiaro che le persone di una certa età se lo possono ricordare, ci possono collegare un loro trascorso, un loro vissuto, però nel pubblico tante volte ci sono anche i giovani che, pur non avendo tutto ciò, non conoscendo il genere, l'immediatezza della musica, diciamo così, il modo in cui tu la proponi, fa sì che rimangano comunque coinvolti e apprezzino questo tipo di musica, perché è una musica che arriva, coinvolge appunto e fa un po' muovere anche fisicamente le persone. Quindi non ho mai avuto difficoltà a convincere il pubblico della bontà di queste cose. Certo, sulla carta, se uno deve comprare un disco, magari ci pensa due volte se non la conosce questa musica, certo. Ma dal vivo arriva, ecco, devo dire questo. Arriva molto bene. Insomma, sì, i concerti di swing sono sempre un'ottima scelta. Ascolta, prima ci parlavi, nominavi anche Luttazzi, ecco, Luttazzi è un altro dei protagonisti del vostro disco. Sì, ci sono diversi pezzi suoi, è una figura che noi apprezziamo tantissimo e difatti cerchiamo di ricordarla in tante occasioni, e nei concerti, e insomma in ogni modo, e anche nel disco appunto abbiamo recuperato dei suoi brani, sia qualcosa di strumentale, brani anche sconosciuti, proprio di carattere prettamente jazzistico, sia qualche sua canzone tra le più note, umoristica, così, insomma, sì, è una figura molto, molto importante, perché ha fatto delle cose geniali, insomma, Lelio Luttazzi. Quest'anno, tra l'altro, è il centenario della nascita, quindi ci saranno in tutta Italia, in alcune città, soprattutto a Trieste, la sua città natale, Roma, eccetera, degli eventi dedicati a lui, ecco, giustamente, perché diciamo che lo scopo anche di operazioni come quelle che facciamo noi è di tenere viva l'attenzione, la memoria di personaggi che hanno fatto la storia della canzone italiana e rischiano però sempre un po' l'oblio, è sempre dietro l'angolo purtroppo, anche per le figure più rilevanti, perché siamo talmente bombardati da tante tendenze, da tante proposte, da tante novità, da tante distrazioni, che poi certe cose rischiano di finire nel famoso dimenticatoio, e noi nel nostro piccolo ci battiamo perché ciò non accada, insomma. Ben fatto, molto, molto importante. Guarda, una domanda che la canzone che abbiamo scelto di Luttazzi, che è contenuta nel vostro disco, è legata ad uno scoglio. Sì. Voi giustamente a lato di ogni canzone, insomma, spiegate che genere è, no? Quindi c'è l'old blues, il medium swing, il folk swing, il mambo, appunto mambo italiano, che è un'altra delle canzoni contenute nel disco, poi c'è il calypso, no? La bossa, ecco, a lato delegata ad uno scoglio, ma anche di un altro brano che è Dischi Volanti, il genere è bounce, ecco, ai non esperti come spieghiamo cos'è il bounce prima di ascoltare il brano? Questa è una domanda difficile, perché il bounce è una definizione che si trova sugli spartiti americani per questi ritmi, diciamo, moderati, molto swinganti, però non so esattamente come poter distinguere quello che veniva chiamato un medium swing da un bounce. Diciamo che è un termine, forse un sinonimo, che usavano appunto in un determinato periodo per distinguere probabilmente riguardava anche delle figure di danza, però tutto questo è piuttosto fumoso, ecco, devo dire la verità. Quindi io lo riporto perché per me riguarda, è un po' un genere che negli anni 50, ecco, aveva un po', era lo swing degli anni 50, che si divideva un po' tra il bounce e lo shuffle. Lo shuffle era quello più saltellato, era più saltellato proprio anche nella danza, nei passi, e il bounce invece era più, magari, più tranquillo, ecco, non so come dire. E così, ecco, anche se il nostro arrangiamento è piuttosto gagliardo, grazie sempre all'arrangiatore Capuano, di nuovo di Antonello Capuano l'arrangiamento, che andremo ad ascoltare, ed è interessante perché prima abbiamo ascoltato in apertura Serena Suraci, che è la nostra cantante. Qui c'è un cantante ospite, che è Stefano Torre, che ha un titolo nel sultanato dello swing, cioè lui ha il rango di giannizzero dello swing, ecco, insomma, che noi ci divertiamo a dare queste cariche. Lui è uno dei tanti giannizzeri dello swing, sono una quindicina più o meno, e sparsi per tutta Italia. Ecco, lui viene da Lodi e gli abbiamo affidato questa canzone. E poi è un brano che diciamo anche alcuni ospiti, il violinista per esempio, che è un ministro del sultanato, che si chiama Francesco Giorgi, e quindi ci divertiamo anche in questo modo, ecco. Poi già la canzone di per sé, legata ad uno scoglio, fa il verso, diciamo, a Legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco, sì. Che è uscita nello stesso periodo, quindi l'altro ha tirato fuori il granello di sabbia, e ovviamente in maniera paradossale Luttazzi, ma soprattutto il paroliere, il grande Leo Chiosso, hanno pensato di caricare la cosa dicendo Legata ad uno scoglio, ecco, insomma. E quindi poi una canzone che è stata lanciata anche da Mina, insomma, ripresa da Fiorello, da Christian De Sica, cioè è stata ci sono molte versioni, esatto, ripresa, sì. E questa è la nostra, anche noi volevamo dire la nostra, ecco, su questo brano. E allora noi ce l'andiamo a sentire, Freddie Colt and the Swing Kids, Time Pavilion è il titolo del disco, Legato ad uno scoglio è l'ultimo brano che vi proponiamo. Freddie, un grande abbraccio, tu ti trovi in questo momento nel sultanato dello swing, che è Sanremo, giusto? Sì, sarebbe la capitale, diciamo così. Un abbraccio, Freddy. A presto. Bene. Grazie, buona continuazione. Buon ascolto. Legata ad uno scoglio, mi piaci baby, così quando mi sveglio col sorgere del dì ti trovo che aspetti, legata a quello scoglio lì. Oh sì, sì, sì, sì, fidarmi dei tuoi baci non posso, credi, perché se c'è la nebbia sparisce lì per lì. Per questo ti aspetto, legata a quello scoglio lì. Oh sì, sì, sì, sì. Forse sarà un po' scomodo, ma l'amore è anche sacrificio. Spari, bidi, badi, bidi, badi, bidi, ba. Non ti ho portato al mare per lasciarti sbaciucchiare dal giovane leone. Bevi l'acqua vinicio, legata ad uno scoglio. Mi piaci, baby, è già trascorso luglio e siamo ancora qui. Io serio ti guardo, tu forse un po' seccata, legata, legata a quello scoglio lì. Thank you.

E questa era The Gift, lui è Tenedle, questo è il suo nuovo album Demetra che è uscito da pochissimo e innanzitutto do il bentornato dopo tanto tempo a Tenedle che è stato varie volte ospite qui in studio a Barcellona, ha suonato nella Ciudad Condal, insomma è un amico di Zibaldone. Tenedle, Dimitri, bentornato. Salve a tutti, ciao Steven, assolutamente sì. Un saluto amicissimo di Zibaldone. Piacere essere qui. Sì, fa piacere anche a noi ritrovarti. Ritrovarti tra l'altro attivo, era da 5 anni che non usciva un tuo nuovo disco, è il 9, no? Se non erro, della tua carriera da solista, iniziata ormai una 20 anni fa e ne abbiamo parlato in passato qui a Zibaldone quando sei stato con noi. Luminal, Alter, Gran Cassa, Vulcano, Traum Sender, che è appunto è il precedente album del 2018. Ode to Love, sì, Ode to Love, esattamente, anche prima, sì, insomma, sulla Dickinson. Per tra l'altro chi volesse può trovare i podcast appunto sulla nostra pagina web con tutte le chiacchierate, anche qualche live session negli studi di Zibaldone con te, ti ricordi? Assolutamente sì, abbiamo già un'ora di tempo per raccontare tutta la nostra storia, bisogno. No, è stato sempre esperienze molto belle anche venirti a trovare in studio, suonare a Barcellona e praticamente hai battezzato quasi tutti i dischi, tutti i dischi da quando ci conosciamo, quindi da Gran Cassa. Sì, effettivamente. 13 anni fa. Sì. Sì. Passa il tempo come vola, vabbè. Beh, insomma, non guardiamo al passato, ma guardiamo ora al presente e parliamo di questo Demetra, che è il tuo nuovo disco. Sì. È un disco che appunto, il nome, insomma, fa riferimento a una dea, quindi un viaggio nel passato, ti domando così a bruciapelo? Beh, certo, comunque, insomma, riferimento, anche se non parliamo proprio di Demetra, la dea, esclusivamente sul disco, perché Demetra è stato uno spunto tra il mio nome di battesimo al femminile, io mi chiamo Dimitri, e per parlare di questioni appunto al femminile, però è ovvio che parliamo di terra, parliamo di culture ancestrali, la dea madre e tutte queste cose mi hanno ispirato e argomenti comunque che da sempre sono presenti nella diatriba tra maschio e femmina, insomma, quindi assolutamente sì, viaggio nel tempo c'è. E tra l'altro, tu proprio dici anche per presentare questo disco, no? La mitologia è ancora capace di ispirare anche i tempi del metaverso, perché insomma tu lavori tra l'altro molto con la tua musica, con differenti tecnologie, sei anche produttore, insomma, e fai una riflessione anche dal punto di vista musicale e cantautorale appunto su quello che è il presente e in questo caso ci dici: mi ricollego al passato, mi ricollego al mito per pensare forse anche il mondo d'oggi, è così? Assolutamente sì, sono, a parte le nostre radici, sono le cose che nella vita di un essere umano, nella breve vita sul pianeta di un essere umano, devono essere, continuano ad essere il fondamento proprio anche per proiettarsi nel futuro, secondo me. Quindi i miti, la fantasia, l'immaginazione, sono assolutamente una base importantissima per diciamo stare un minimo stabili anche nella proiezione verso l'ignoto, ecco. E tra l'altro, insomma, un mondo, un pianeta che sta vivendo, vabbè, come sempre va avanti per ora, vediamo fino a quando, però insomma, negli ultimi anni ne sono successe di cose, ne stanno succedendo e di cose davvero non belle che pensavamo forse che fossero cose del passato, no? Che fossero rimaste là, chiuse in una scatola e superate. C'è anche questo nel tuo disco? Assolutamente sì, e forse proprio c'è proprio questo, perché beh, se ti chiedi come artista che cosa ancora si può innovare o si può dare o che cosa si deve dare in questo momento, provare nel nostro piccolo a rimettere il focus su questa faccenda, le guerre, come ci si comporta rispetto al pianeta e in che momento siamo, appunto, pericolosissimo, sia per ripetersi del disastro umano, e comunque la storia non ci insegna nulla, purtroppo si vede, siamo di nuovo in una crisi pazzesca, cioè la violenza non è mai finita, però insomma l'escalation e queste cose in nome del dio danaro o qualcosa del genere o del potere ci riportano a questi livelli, senza, e trascuriamo in questo modo l'elemento clima e il disastro che stiamo combinando a livello climatico, ci distraiamo mentre ci sarebbe da muoversi velocemente. Nel disco ci sono tutti questi aspetti, non si poteva parlare di altro, insomma. Oggi è importante usare questi piccoli mezzi per anche nel proprio cerchio di amicizie e di sostenitori. Assolutamente importante, sì. Fondamentale. Tra l'altro abbiamo proprio aperto con una canzone che si intitola The Gift. Cos'è, sì, questo dono a cui tu fai riferimento? The Gift è il... insomma, alla fine è la sessualità, la asessualità in senso sentimentale, cioè il porsi in una condizione né maschile né femminile, che comunque mette al centro delle cose appunto i rapporti fatti d'amore, i rapporti veri, perché comunque nel testo c'è una piccola critica ripetuta 3 volte a tutti questi amici e questi likes, in inglese ovviamente, che è tutta roba comunque importante. I rapporti ci sono anche sì, ma un ritorno alle cose vere, e appunto senza costrizioni, restrizioni mentali, nel senso, ecco, il dono mio personale, se c'è, è quello di oppure del personaggio o di chi scrive in The Gift, è quello di non porsi limite sul discorso sessuale, ecco, cioè, ma non sessuale fisico, proprio sul pensare femminile maschile, da uomo, e femminile maschile da donna, o appunto tutto questo discorso qua. È difficile per me spiegare dettagliatamente, certo, la cosa, certo, ma si sente, e comunque ci siamo riusciti, credo, con il contesto anche del musicale. Andiamo ad ascoltarci un'altra canzone di questo nuovo album di Tenedle Demetra, è Stream of Consciousness, e poi ritorniamo qui, Dimitri, insieme a te. I spoke to my sisters on the way back from a dream, but this is not a witchcraft, people shooting down the street. Well, you know the story of humanity on earth, men meant to be soldiers, women meant to give men birth. Sleep, my love, stay where you are. Don't wake up now, don't hit the ground. This is not your time. A bunch of idiots rules the world. 1 million of souls are screaming lost. Richness is the society, but shows the same brutalities. An empire of fools. Sleep, my love, stay where you are. Don't wake up now, don't hit the ground. This is not your time. Attention. story of humanity on earth. Men meant to be soldier, women meant to give birth. Stream of Consciousness, lui è Ten Edley, ci sta accompagnando in questa seconda parte di Zibaldone qui ormai alla fine di febbraio qui a Barcellona. Dimitri, stavamo parlando di Demetra, del tuo disco, delle tematiche sì. che hai toccato, no, in queste canzoni, alcune le abbiamo sì. proposte ai nostri ascoltatori, dall'altra c'è il lato strumentale, musicale, no, che continua un percorso che tu hai cominciato parecchi anni fa, in alcuni album che, di cui avevamo già parlato, però che si arricchisce anche di nuove dimensioni. Sì, la musica per me è sempre stata la cosa principale da quando faccio musica, quindi da quindicenne io avevo una band elettronica, lavoravamo moltissimo in studio, per noi il suono, musica e suono venivano sempre prima di testi e parole. Io sono passato all'inglese, ma ripeto, la parte musicale è sempre stata la ricerca. E non mi sono mai trovato nella parola cantautore, anche se effettivamente io scrivo canzoni. E ancora di più negli ultimi anni, negli anni della pandemia, io ho studiato come sound designer e compositore, tutto il discorso dei media televisivi, non che mi ami particolarmente quel mondo, però ne ha giovato tutta la mia ricerca sul suono, quindi... L'elettronica, il suono, l'aspetto multimediale, l'aspetto sonoro sono ormai frutto anche di esperienze degli ultimi dischi, ma comunque è sempre stata una parte fondamentale del lavoro. E sì, tra l'altro ha anche a che fare con i videoclip, i live, tu nella parte live è da anni, no, che arricchisci il live unendo la parte musicale, cantautorale se vuoi, di una canzone d'autore molto contemporanea e anche pop, no, però con anche appunto altri elementi. Sì, esatto, da quando sto in Olanda, ormai 15 anni, sia i paesaggi, sia i tempi, sia la mia... curiosità, cioè mi hanno fatto sviluppare questa forma d'arte che a me piace molto. La cosa poi ho trovato congeniale è stato l'unirlo, perché comunque il video prima inizialmente era un supporto alle mie performance da solo, quindi qualcosa che ti aiutavano a scenograficamente, facevo cose molto, molto minimaliste, ma insomma di impatto. Nel tempo, appunto, io ho molta passione per il cinema e faccio anche dei piccoli corti, ma insomma, in senso sempre assolutamente sperimentale. Però è diventato un aspetto molto importante nei miei dischi e prossimamente lo sarà anche all'inverso, cioè fare micro cinema e musicarlo oppure sonorizzarlo. Quindi è un aspetto molto importante della mia produzione. Tra l'altro in questo disco ti accompagnano anche altri artisti come Gina Graham, Serena Riley, Bert Locke, Marty Teusing, e qui ne accennavi tu prima, tra l'altro c'è una cosa interessante, insomma quando noi ti abbiamo conosciuto qui a Zibaldone tu scrivevi e cantavi essenzialmente in italiano, no? Penso per esempio a Gran Cassa che nominavamo prima, ormai invece con questo disco continui un percorso che ormai è quello di esprimerti in lingua inglese. Dopo Vulcano ci fu il disco su Emily Dickinson con i testi, le poesie sue, e da lì sì, ovviamente il fatto che io abitassi già da molto tempo in Olanda, avessi a che fare e voglia anche di incontrare un altro tipo di pubblico o arricchire il pubblico mi creò un po' questo dilemma e decisi di cantare in italiano. Ho avuto immediatamente fortuna con Tom Sanders, sono stato a Londra, dove non mi aspettavo di suonare immediatamente due volte e in altri posti. L'italiano mi manca un pochino perché i giochi e il divertimento che potevo farmi in italiano con i testi italiano li ho abbandonati, non dovuto, però li ho abbandonati per due motivi prevalentemente. Vabbè, inglese ovviamente è immediato anche per un potenziale pubblico la lingua fuori franca dall'Italia. Certo sì, la lingua della musica pop, così, anche se che io so comunque sono stato molto molto cattivo, io con l'inglese sono cattivo, più cattivo di come lo ero in italiano, mi divertivo di più, però la scelta è stata anche leggermente polemica rispetto all'italiano, alla situazione italiana culturale da anni. Io penso di aver scritto cose ancora abbastanza interessanti in italiano, quindi avevo voglia di veramente di scrollarmi da una situazione che in casa, in Italia voglio dire, anche se io vivo all'estero, è molto ferma a livello culturale. E siamo purtroppo in un momento abbastanza critico. Allora, un po' come descriveva Pasolini, ora senza, con tutte le proporzioni, quando cominciò a fare il cinema come altro linguaggio rispetto, in polemica un po' con la situazione culturale italiana, c'è sempre stato sto contrasto. E come io tempo fa vidi una intervista su Battisti, molto bella, quando anche lui fece sta avventura, non gli andò tanto bene, ma comunque il discorso di innovarsi e comunque di rompere, lui aveva un successo enorme in Italia, però decise di fare sta faccenda, provare questa faccenda, se gli fosse andata bene sarebbe anche andato avanti in inglese, credo, perché era una curiosità e anche un rimettersi in gioco rispetto al proprio paese, no? E per me appunto la voglia di riscrivere in italiano c'è, però ormai i miei dischi principali girano intorno all'inglese, anche perché mi è andata bene nel mio piccolo subito, mi sta andando bene, direi. Sì, no, assolutamente è chiarissimo quello che ci spieghi. Andiamo ad ascoltarci, ci salutiamo con un ultimo brano, The Beast. Chi è questa bestia, sì. Dimitri? Spiegaci un po'. The Beast è proprio l'uomo, e secondo me l'uomo maschio, e noi, cioè l'ho scritta in senso in prima persona, perché comunque ovviamente mi assumo la responsabilità però la bestia è proprio l'uomo maschio, nel testo c'è proprio chiaro sta faccenda, io sono un uomo e sono solo capace di distruggere, ecco. E ora ovviamente non è uno stereotipo, non vale per tutti, io stesso mi dissocio immediatamente perché però insomma c'è un po' sta faccenda. In duetto con me c'è Marcia Tursing, una fantastica songwriter olandese che consiglio assolutamente a tutti, canti in inglese, in olandese, ma è stata una fantastica partner in questo pezzo. E allora ce l'andiamo a sentire, andiamo ad ascoltare anche la sua voce insieme alla tua. Tenedle, grazie davvero di essere tornato a trovarci e vediamo se ti ritroviamo presto anche a Barcellona fisicamente, non solo in collegamento telefonico dalla tua ormai Olanda. Volentierissimo, un saluto grandissimo a tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici di Zibaldone e grazie Steven, a presto, ciao. Restless, yes, that's how I feel. and stars behaving. You are late, it's time to fade in. He could kill, but I'm a man. My soul is seriously ill. Is my only skill. In tutta Italia, bufera per la denuncia di un sessantenne italiano. Nel giorno del ricordo della tragedia delle foibe, ancora oltre 500 persone a letto con le milizie di Tito per una serata piena di sorprese ed emozioni. Tajani dice impossibile essere pronti a una catastrofe del genere, con una mostra e un francobollo commemorativo. C'è pericolo di contatti con l'esterno. Con questa motivazione il ministro della giustizia Nordio, che a Milano ha mangiato un tiramisù, ha respinto i turisti stranieri. L'ennesimo paradosso della giustizia italiana: una montagna si è spostata di 3 metri in pochi secondi per non cadere nelle trappole del web. Mafiosi russi rinnovano il loro amore per l'Italia, stregati dagli accoltellamenti alla stazione Termini. In Lazio e in Lombardia Erdogan ammette: votando noi si rafforza il coordinamento tra esecutivo e amministrazioni regionali. Romantiche e sofisticate, centrosinistra con alleanze diverse, cresciute senza parlare. Abbiamo fallito, ma esiste un salvavita: adrenalina da iniettare immediatamente sulla coscia. Si cerca il movente che ha spinto l'ennesimo braccio di ferro con l'Unione Europea. In un supermercato per 5,20 euro. L'Italia lo celebra con una mostra e un francobollo commemorativo a carico della collettività. L'ortofrutta italiana promuove l'uso consapevole di computer e cellulari e incoraggia a denunciare la fiera di Berlino sulle spiagge di Romagna. Nell'indifferenza generale, il ministro Salvini dice che sarebbe dovuto essere vegano per 3 ore. Mi impegnerò perché non accada a qualcun altro. E vabbè, avete sentito che sono arrivate anche, puntuali come sempre, le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo, e è arrivato anche preciso come non mai per il rush finale di questa fine trasmissione anche il nostro Banzo, Enrico Banzola, che saluto e insomma gli do il bentornato a Zibaldone. Ciao Banzo. Buonasera Steven, buonasera a tutti. Avrei notato che non ho detto buon pomeriggio perché siamo verso la fine del programma. Ero in giro a fare commissioni per conto di Zibaldone. Ecco. Bene, bravo, era da tempo che non ascoltavo questa espressione. Ascolta Banzo, facci un attimo un sunto di queste ultimissime, perché io sono un attimo, ho un po' di labirintite dopo averle ascoltate. Volevo precisare che stavo facendo commissioni di inchiesta per conto di Zibaldone. Ecco, va bene, meglio. Ma io comincerei con queste 500 persone a letto con le milizie di Tito, perché sarebbe interessante. Sappiamo che ci sono ancora 500 persone a letto con le milizie di Tito, ma non sappiamo quanti sono gli effettivi delle milizie di Tito. Questo è interessante, un po' per sapere che genere di situazione si crea, e non voglio dilungarmi oltre. Poi è interessante questo aneddoto piuttosto oscuro della montagna che si sposta di 3 metri in pochi secondi, non per una catastrofe, ma per evitare le trappole del web, che non so come possono danneggiare una montagna, però le ultimissime sono spesso alquanto criptiche. Ci vorrebbe Nostradamus. Poi, proseguendo nell'enumerazione delle notizie, potrei dirti che, ad esempio, a me ha commosso la dichiarazione dei mafiosi russi, innamorati dagli accoltellamenti, stregati dagli accoltellamenti alla stazione Termini. È veramente il momento forse più romantico delle ultimissime di oggi. E poi, vabbè, Erdogan che spinge, chiede di essere votato in Lazio e Lombardia per avere un maggiore coordinamento dell'esecutivo, eccetera. E, beh, è talmente forte il suo potere che addirittura lo si cementa votando a delle regionali in Italia. E chiuderei con Salvini. Sì, con l'ortofrutto italiano che promuove l'uso consapevole di computer e cellulari. Non mi è chiaro come, sarebbe interessante approfondire. Per quanto riguarda Salvini, cosa posso dire? Povera stella, nel senso, tu sai che io sono vegano da molto più di 3 ore, ecco, quindi diciamo che so che per Salvini è una tortura, però che si fotta, ecco. Sì, guarda, sottoscrivo, visto che siamo un po' a rush finale, non perdiamo altro tempo perché è arrivato il momento della rubrica dei libri, il libro della settimana di Zibaldone. Zibaldone, perché dove saremmo noi senza Leopardi? La rubrica di libri del nostro programma. Sì, insomma, come l'ha detto la sigletta, Banzo, è il momento dei libri. E quest'oggi di che libro parliamo? Perché sì che facciamo un altro viaggio nel tempo. Se prima siamo stati a fine 800, a metà 900, adesso sì che arriviamo negli anni negli anni 70, nel lungo 68, dai, potremmo chiamarlo. Esatto, Steven, e non è la prima volta che ultimamente frequentiamo gli anni 70, però diciamo che è un po' una consuetudine per Zibaldone, visto che è un periodo storico per il quale abbiamo molto interesse. Non direi banalmente che ci piace, però è effettivamente un periodo cruciale della storia del nostro paese, perché infatti, non l'ho detto, gli anni 70 sono interessanti in generale, però si parlerà di Italia, perché oggi vi racconterò un po' del libro La Banda Bellini di Marco Filopat, del quale sono uscite varie edizioni. La più recente, per chi la vuole cercare, è edita da Agenzia X nel 2015 in ebook col sottotitolo Romanzo sugli anni 70, più esplicativo impossibile. Io ho letto un'edizione pubblicata da Einaudi nel 2007, ma ne è uscita anche una, la prima è uscita su Shake nel 2002. Ecco, Marco Filopat, molto brevemente, pseudonimo di Marco Galliani, milanese, classe 1962, punk della primissima ora, fondatore, oltre che di Shake Edizioni, anche del centro sociale Virus a Milano nell'82, autentico crocevia della prima scena hardcore italiana. Infatti è stato anche autore di un romanzo autobiografico sul punk, Costretti a sanguinare. Ma qui siamo per parlare di, appunto, La Banda Bellini, che racconta la storia dell'omonimo servizio d'ordine del movimento milanese e del suo leader e fondatore Andrea Bellini. Ecco, i servizi d'ordine erano sostanzialmente gruppi di militanti auto-organizzati che difendevano le manifestazioni in caso di attacchi della polizia nell'Italia degli anni 60-70. Una precisazione è importante, forse, sì. Cioè, forse superfluo per alcuni, però io ho ribadito, molte volte in queste ultime puntate che effettivamente quando parliamo di anni 70 è un periodo relativamente vicino, ma la distanza di certi concetti, di certe situazioni è quasi abissale, quindi sì, vale la pena ricordarlo. E quindi, appunto, la storia di Andrea Bellini e del servizio d'ordine, la Banda Bellini, che si ispirava come nume tutelare al mucchio selvaggio di Sam Peckinpah, viene raccontato nel corso del libro. E è un romanzo, però è molto banalmente, come si suol dire, un romanzo basato su fatti veri e al tempo stesso un documento di storia orale, in quanto Filopat si è basato su racconti orali dello stesso Bellini. E in effetti una caratteristica fondamentale del libro è lo stile col quale viene raccontata la storia, che è prettamente orale, è molto diretto, molto informale, può risultare leggermente faticoso nelle prime pagine, ma secondo me garantisce un'immersione straordinaria nel contesto narrativo ti fa sentire veramente a fianco dei personaggi e più vicino a una situazione che, come dicevo prima, è lontana, penso, dal vissuto del lettore contemporaneo o della maggioranza dei lettori contemporanei, perché è un racconto dall'interno della militanza più forte, non vorrei usare la parola estrema perché mi sembra fuori luogo, però una militanza piuttosto radicale, ecco. E, il lasso temporale delle vicende più o meno è dalla seconda metà dei 60, anche se si arriva praticamente subito al 68, fino alla metà degli anni 70, con un autentico punto di inflessione che è costituito dall'omicidio del neofascista Sergio Ramelli nel 75 a Milano, che costrinse vari membri della sinistra extraparlamentare a una temporanea fuga dall'Italia, fra i quali lo stesso Bellini. E appunto qui la trama non è fondamentale, diciamo che non c'è rischio di spoiler. Ovviamente, trattandosi di un servizio d'ordine che difendeva il movimento durante le manifestazioni, abbondano le descrizioni di scontri, e questo mi porta a un parallelo parziale col grandissimo Vogliamo Tutto di Nanni Balestrini, un libro che a sua volta era basato su uno schema simile di storia orale, cioè perché Balestrini si era basato sui racconti di un operaio, Comunque, come dicevo, lo stile narrativo permette una immersione fortissima, perché alcune cose sono contestualmente molto lontane dal lettore di oggi. Appunto, viene descritta questa visione di militanza che ha un'etica, delle regole, dei limiti molto chiari, ma che è molto lontana da quello che, diciamo, la persona normale di oggi considererebbe accettabile. Infatti faccio un solo esempio: vengono descritti i cosiddetti cucchini, che erano in pratica delle ronde antifasciste in quartieri popolati da fascisti, nella quale i fascisti venivano sostanzialmente menati, non in modo, diciamo, irreversibile, ma a scopo di delimitare il territorio. Ecco, questo viene descritto in modo molto, diciamo, ovviamente dal punto di vista di chi lo ha vissuto, potrebbe essere, diciamo, discutibile per i moderati di oggigiorno, però diciamo che questo libro ha appunto il compito di restituirci un contesto che non c'è più dalla voce del suo protagonista. E, come commento musicale... Infatti ne abbiamo uno, no? Che si intitola proprio Servizio d'Ordine, non a caso. Esatto, è il title track, primo brano di un mini album degli Spartiti, cioè Max Collini e Yuka Reverberi, che contiene un brano del romanzo di Filopat. Ed è interessante perché c'è un piccolo dettaglio cronologico che è molto importante, cioè che il disco è uscito nel gennaio del 2017 e il video alcuni giorni prima, una settimana prima, e Andrea Bellini era venuto a mancare nel dicembre del 2016, quindi nel video trovate anche un omaggio, una dedica di Collini e Reverberi al compagno Andrea Bellini da due eurocomunisti. Il pezzo è veramente bellissimo, ve lo trasmettiamo seduta stante. Sì, ce lo andiamo ad ascoltare. E poi ritorniamo, anche perché è giunto il termine della trasmissione, i saluti, ma c'è ancora qualcos'altro in serbo per voi. Spartiti, Servizio d'Ordine. Andrea Bellini è il capo della banda Bellini, il servizio d'ordine del movimento milanese. Siamo nei primi anni 70 e Bellini si sta nascondendo nel suo quartiere, il Casoretto. È passato un mese da allora, sono saltati tutti i turni per le scorte del Casoretto. Sono a casa di mia zia a dormire e non lo sa neppure l'Ettore. Mi svegliano dei forti rumori che provengono dalla strada. Sono le 3:30 di notte. Sbircio dalla finestra. 5 automobili frenano bruscamente. Scendono sbattendo forte le portiere. Saranno una ventina. Sono fascisti. Ne riconosco alcuni. Mentre mi metto i pantaloni si sentono delle urla. Anche mia zia si sveglia. Ritorno alla finestra. senza accendere la luce. Li vedo mettersi in fila con il braccio teso alla nazista. Esci fuori, Bellini, sei un uomo morto, sei finito. E secchio di vernice nera scrivono sul muro di fronte a me a caratteri cubitali. Bellini da vivi. Bellissimi da morti. Spartiti, servizio d'ordine ci ha portato davvero banzo negli anni 70 questa canzone, questo frammento del libro di Marco Filopat che è stato il libro della settimana. Noi siamo arrivati davvero alla fine dello Zibaldone di quest'oggi, ci salutiamo non con l'ultimo trago perché oggi non c'è tempo, ma con la nuova rubrica De Italia Oltraparte, ossia brani di artisti italiani che vengono tradotti ed interpretati in lingua spagnola in Spagna o in America Latina. Banzo, quest'oggi oggi voliamo in Argentina. Sì, esatto, De Italia Oltraparte oggi sarà anche un po' l'ultimo trago perché appunto il tempo è tiranno e noi siamo contro la tirannia, ma tant'è. Oggi vi proponiamo un brano di Marilina Ross che è una cover in spagnolo di un brano di Mia Martini del 1977, mentre la versione con testo di Ivano Fossati, mentre la versione spagnola del 1982 contenuta nel disco Soles. Molto rapidamente, Marilina Ross è argentina, abbiamo detto, classe 1943, e è sostanzialmente attrice e cantautrice con una divisione non netta però abbastanza preponderante fra le due parti della sua carriera, soprattutto attrice negli anni 60-70 e soprattutto cantautrice fra gli 80 e i 90, però appunto le due anime coesistono e spesso si intersecano. Il brano è molto bello, l'origine sia l'originale, bella anche la cover. E per un momento... Sì, dimmi Steven. Prego, continua. E per un momento che ci riporta brevemente ai tempi di L'Italia canta in Espagnol, brevissimo dettaglio sul testo, c'è una frase nell'originale, sulla luce che spaccò Firenze a metà, mi chiedevo come sarebbe stato reso in spagnolo e diventa Nuestra Ciudad, generico, la nostra città. Giustamente così. Non c'è tempo per altro, solo per ascoltarci Danza di Marilina Ross. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per altre due ore di Zibaldone, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván. Ci risentiamo venerdì prossimo con tantissime commissioni d'inchiesta. Ecco, ciao Banzo, stammi bene. A venerdì, Steven. Danza Marilina Ross, ascoltatevela qui. Porque solo no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas. Sola no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, sola no estás. Danza bella niña, pequeña niña, distorsiones del tiempo, sola no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela danza sobre el dolor, que la danza lo consumirá. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, danza sobre la desventura a la luz de la luna, sobre el campo y el mar. Danza es caricia, es pudor, danza no es odio, es amor, es aprender a volar. Pudieras danzar por el aire, también las estrellas podrían abrazarte. De veras, no sigas aferrado.